Siamo in collegamento con Federica Timeto, che ringrazio per presentare il suo libro Animali si diventa, Femminismi e Liberazione Animale, edito da Tamu. Ringrazio Federica che lavora e insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia e si occupa di studi culturali e studi della tecnoscienza da una prospettiva situata eco-transfemminista e antispecista. Ciao, buongiorno. Volevo innanzitutto con te iniziare parlando appunto del titolo Animali si diventa e soprattutto femminismi e liberazione animale. Quindi ci sono diversi femminismi, alcuni si occupano di più rispetto ad altri della liberazione animale? Ci sono sicuramente diversi femminismi e tra questi femminismi non necessariamente la questione dello specismo, l'ideologia specista è tematizzata. Diciamo che l'incontro tra il femminismo e l'antispecismo è abbastanza recente, mentre tra il femminismo e la questione animale può essere datato fino alla, indietro, fino alla fine dell'Ottocento. Sono incontri che avvengono in modalità diverse, su tematiche diverse e anche con obiettivi diversi. Quindi, se parliamo del femminismo dell'Ottocento, non possiamo sicuramente, come dire, fare affidamento su quello per capire cosa significa un antispecismo femminista. Però è chiaro che è importante anche tracciare una storia per costruire una genealogia alternativa, una genealogia che appunto mostri che in realtà la questione animale è spesso stata affrontata nei femminismi e che anche il cosiddetto femminismo della prima ondata o femminismi non necessariamente intersezionali come quello che invece io, da cui insomma io elaboro la mia prospettiva, hanno in realtà avuto, hanno intrattenuto un dialogo, no? Con gli attivisti, le attiviste per i diritti animali. Diciamo che inizialmente parliamo di questione animale e soltanto a partire dagli anni 70 in poi in realtà parliamo di antispecismo perché è antispecismo, cioè la lotta contro la discriminazione basata sul privilegio di specie è un termine che nasce negli anni 70 del Novecento. Nel tuo libro affronti il tema da diversi punti di vista. Io volevo partire da quello marxista, dove la critica allo sfruttamento del lavoro delle donne nel capitalismo non ha condotto, secondo, cioè, te, a una riflessione sul capitale di specie e sul lavoro produttivo e riproduttivo delle altre viventi. Ecco, in questo, visto che molti femminismi, appunto il femminismo fa riferimento comunque a una matrice socialista, marxista, eccetera, in questo secondo te ad oggi è dato il fatto anche che appunto non tutti i femminismi abbracciano l'antispecismo e che prospettiva marxista critichi, ecco. Sì, c'è un doppio problema, nel senso che già il marxismo, tendenzialmente è una ideologia, una politica molto umanista e antropocentrata e quindi anche in realtà il, femminismo socialista, anche quel femminismo che dapprima critica, l'attenzione al solo lavoro produttivo e introduce la questione del lavoro riproduttivo, no? Il femminismo, del salario per il lavoro domestico degli anni 70 e che oggi è il social reproduction feminism, in realtà del marxismo mantiene questo umanismo, diciamo così. Quindi questo rende questo tipo di femminismo più impermeabile alla attenzione per le questioni di specie. Non è in assoluto una chiusura, perché in realtà ci sono delle femministe radicali, diciamo così, particolarmente in Italia, che hanno abbracciato la causa antispecista, però devo dire che secondo me una maggiore apertura del femminismo all'antispecismo può avvenire da prospettive che sono già state capaci di superare intanto il focus su un solo tema, su una sola questione, quindi che sia la classe o che sia il genere, quindi un femminismo più di tipo intersezionale, dall'altro lato un femminismo attento alle relazioni, quindi un femminismo che se vuoi Per esempio, politicamente potrebbe avere le sue radici nell'anarchia piuttosto che nel marxismo, e che in realtà ha poi animato la nascita anche dei cosiddetti critical animal studies. Il mio femminismo, cioè il femminismo che io discuto e che abbraccio, è il transfemminismo che ha una prospettiva intersezionale e antispecista insieme, quindi un'intersezionalità anche in quel caso un po' modificata rispetto alla definizione originaria di intersezionalità, che invece era riservata soltanto alle donne, alle donne nere, ma comunque agli esseri viventi umani. Nel tuo libro tu tratti tantissimo una parte del femminismo, che noi possiamo considerare insomma il femminismo, quello della fine dell'Ottocento, in particolare quello delle suffragiste, che viene considerato un femminismo molto raccontato dal mainstream, tra virgolette, molto autolesionista, perché insomma c'è stata la questione del suicidio, eccetera, e via dicendo, no? È anche molto piccolo e circoscritto. Invece, a cominciare dalla filmografia e anche dal tuo libro, è un femminismo molto radicale già alla fine dell'Ottocento, e che aveva al suo interno anche la questione animale molto forte. Sì, ci sono posizioni ovviamente anche diverse, sfumature diverse e approcci diversi anche in quel femminismo. Infatti, diciamo, parlare appunto di ondate è molto omogeneizzante, io non lo amo particolarmente, perché in realtà, se poi andiamo a guardare le femministe a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, partono da posizioni, posizionamenti anche molto diversi fra di loro, no? Che vanno anche in questo caso dal socialismo all'anarchismo, dal riformismo all'azione diretta. Molte di loro compiono azioni dirette, anche violente, molte di loro per esempio ingaggiano forme di protesta come lo sciopero della fame, anche per mostrare la animalizzazione, no, delle donne. Quindi in realtà sì, la questione animale entra già prepotentemente in questo tipo di femminismo, viene tematizzata, viene discussa in termini più che altro di analogia, cioè le donne trattate come gli animali, e quindi gli animali da proteggere e le donne da liberare, oppure gli animali addomesticati e le donne addomesticate nello spazio domestico. E quindi questo parlare di animali, occuparsi di animali, offre alle donne la possibilità intanto di parlare della loro condizione, ma anche di occupare lo spazio pubblico come attiviste, di uscire dalle pareti di casa e di fare politica, iniziare a fare politica anche così, oltre a altre varie rivendicazioni più note, ovviamente, proprie, più proprie, insomma, più mainstream, no? Del femminismo, quindi i diritti, questioni economiche, questioni del lavoro e le questioni del voto. La questione della protezione animale è in realtà, serpeggia in realtà in molte delle posizioni più o meno moderate delle femministe primo novecentesche, addirittura risalendo indietro a Mary Wollstonecraft, no? Mary Wollstonecraft, la mamma di Mary Shelley, nota per aver scritto Rivendicazione dei diritti della donna e una serie di altri testi in cui spessissimo ricorre al paragone con gli animali. Quando si arriva invece alla classificazione, diciamo così, o comunque all'uso della parola antispecismo, e quanto questa sia legata o comunque si differenzi alla lotta per la salvaguardia degli animali, appunto, che non sono. Sì, non è la stessa cosa, perché diciamo parlare di protezione degli animali comunque presuppone sempre un'elargizione, no, di diritti che mantiene al suo centro l'umano, mentre se noi parliamo di antispecismo, parliamo di una lotta, di una prassi politica in cui non c'è in realtà nemmeno questa distinzione tra diritti umani e diritti animali, o tra viventi umani e viventi non umani, perché i viventi umani sono chiaramente anche animali. La definizione di antispecismo, come dicevo prima, nasce nel 1970 e nasce ad Oxford per protestare per le strade di Oxford contro soprattutto la sperimentazione sugli animali, ma anche l'uso di materiali animali o insomma abbigliamento legato ai corpi animali, no? Le penne, le piume, cose che già si discutevano all'inizio del Novecento, le pellicce, la pelle. E viene coniato da Richard Rider, in un gruppo che è l'Oxford Group, che è composto da attivisti che sono soprattutto universitari, sia docenti che studenti. Ed è già un primo momento in cui si crea proprio questo ponte tra l'accademia e invece la strada, che poi in realtà la riflessione antispecista manterrà, è una riflessione che è sempre un po' a cavallo tra la teoria e la prassi e che non separa per nulla le due. In questo il femminismo è avvantaggiato perché il femminismo, essendo antidualista, di suo già non distingue, no? Tra la teoria e la prassi, quantomeno il femminismo incorporato, contemporaneo. E poi evolve nella riflessione soprattutto eco-veg femminista, cioè quella che di suo indirizza la questione animale più nello specifico, quindi non l'ecofemminismo in generale, ma proprio l'ecofemminismo legato anche alla pratica del veganismo, diciamo negli anni 80 e 90, e poi si istituzionalizza a metà degli anni 2000 questo pensiero, cioè ritorna anche dentro l'accademia con i primi corsi, le prime riviste, le prime anche associazioni. Quindi parlare di ecofemminismo e parlare di femminismo antispecista è secondo te la stessa cosa? Cioè, quando il femminismo a un certo punto, penso insomma anche appunto negli Stati Uniti, tutto quello che riguarda la lotta anche al nucleare, via dicendo, comunque nascono le ecofemministe più sulla questione ambientale, no? Esatto, no, infatti non è la stessa cosa, nel Quando è che senso che si l'eco. incontra con l'antispecismo e diventa l'eco veg femminismo. C'è Allora, una intanto figura ecoveg importante femminismo è un dietro. termine che è stato coniato in Italia da Zabonati e non è un termine effettivamente riconosciuto all'estero. Quindi Carol Adams, se parla di sé, non si definisce un ecoveg femminista, però è un termine molto comodo perché è un termine che differenzia, no, l'ecofemminismo in generale dall'ecofemminismo attento alla questione animale. Quindi, se noi parliamo di ecofemminismo in generale, noi notiamo che c'è sicuramente una attenzione all'ecologia, alle questioni della natura, appunto come dicevi tu, alla lotta contro il nucleare, anche un'attenzione per l'ambiente, ma non c'è un focus così netto sulla questione animale come invece nel pensiero ecoveg femminista che sì, facciamo risalire se vuoi a Carol Adams e al suo famoso testo The Sexual Politics of Meat, che poi in italiano è stato tradotto come carne da macello e tradotto qualche anno fa, e mentre è uscito, ha avuto una gestazione molto lunga, un 25 anni circa, ed è uscito nei primissimi, nel 90, no? E poi ha avuto tantissime edizioni con prefazioni diverse, eccetera. È proprio il classico dell'ecoveg femminismo, per certi versi anche se vuoi superato, ma comunque imprescindibile. Mentre se noi parliamo di ecofemminismo in generale, molto spesso l'ecofemminismo così più ampio ha una matrice anch'esso marxista, e è raro che affronti la questione animale nello specifico. Diciamo, hai citato l'intersezionalità, il femminismo, soprattutto quello africano-americano, ha portato l'intersezionalità delle lotte all'interno del femminismo perché si affianca l'antispecismo, soprattutto all'antirazzismo. Perché i processi di animalizzazione sono processi che riguardano sia gli umani che gli animali, cioè chiunque può essere, qualsiasi vivente può essere animalizzato in senso ovviamente negativo e viceversa, può essere più o meno umanizzato, pure gli animali possono essere umanizzati, quindi diciamo che la banda che ha ai suoi opposti l'umano e l'animale non umano, quindi l'animale umano e l'animale non umano, prevede al suo interno una sorta di continuum di variazioni in cui si passa dal massimo della umanizzazione al massimo dell'animalizzazione. Ovviamente non è un processo simmetrico, è un processo gerarchico, perché se uno animalizza, animalizza per subordinare, per dominare, per estrarre, per marginalizzare, tutta una serie di tecniche e processi che sono per esempio stati molto ben messi in evidenza dalla critica dei dualismi di un'altra importante eco-veg femminista che è Val Plumwood. di cui per esempio parlo nella parte centrale del libro, che è la parte più teorica. Per quanto mi riguarda, io ho notato nello studiare questi fenomeni che man mano che si procede e si va avanti c'è una complessificazione, una problematizzazione continua, no, dei posizionamenti, per cui una cosa evidente, e questo è evidente se confrontiamo i primi due capitoli, quelli più storici del libro, è che il primo capitolo racconta e discute le teorie delle femministe bianche, e queste teorie delle femministe bianche iniziano a vacillare e risultare più fragili nel momento in cui ci avviciniamo al secondo capitolo, che è il capitolo invece in cui io discuto la declinazione antispecista dell'intersezionalità e l'apporto della teoria critica della razza femminista al pensiero antispecista, che allarga molto di più e problematizza il femminismo bianco e occidentale e lo complica e lo mostra in un contesto, in una serie di relazioni molto più complesse. Andando ancora avanti, per esempio, anche i nuovi materialismi danno un apporto importante alla riflessione antispecista, e così pure, anche se sembra strano, il tecnofemminismo o la filosofia femminista della scienza. Non dimentichiamo che è all'interno di questa che nascono le epistemologie situate, che io faccio mie e combino con una visione intersezionale, parlando infatti di visione multiottica, che è insieme intersezionale ma sempre anche situata. Visione multiottica è una definizione che dà Claire Jenkins, che è una antispecista femminista, che presta particolare attenzione, per esempio, alle questioni indigene. Senti, a un certo punto tu hai citato ovviamente gli studi della Oxford e hai nominato, insomma, fondamentalmente degli uomini. In questo perché le donne non erano presenti o quanto anche su questo argomento sono state oscurate i pensieri e le lotte delle donne e delle femministe? Eh beh, come sempre accade quando si scava nella storia, si ci accorge che le genealogie sono per lo più sempre al maschile, no? E che i campi del sapere sono dominati da figure maschili, quindi anche proprio da un approccio patriarcale alla storia e agli archivi. E quindi sì, è importante accorgersi che esistono altre genealogie, come è stato fatto in varie discipline, penso la letteratura, penso anche la storia dell'arte, no? Il famoso libro di Linda Nochlin, Perché non ci sono state grandi artiste donne, il cui titolo già era molto ironico perché diceva, prendeva un po' in giro questa domanda, già il porre la domanda. È chiaro che ci sono state, semplicemente nessuno ne ha parlato, nessuno ha rintracciato queste genealogie alternative. Quindi quello che io cerco di fare nel libro è anche questo. Infatti la prima parte del libro è più storica ed è più storica per questa ragione. È giusto mostrare come in realtà non esistono soltanto i padri fondatori nell'antispecismo, sebbene siano i più nominati, Ryder per la definizione, ma anche Singer e Regan per i libri, il libro Liberazione Animale è ancora considerato l'inizio, no, dell'antispecismo, certo non di quello femminista, se poi pensiamo, insomma, che Singer è un personaggio molto controverso e decisamente antifemminista, però lui stesso ha contribuito a oscurare altre figure che esistevano anche intorno all'Oxford Group, come per esempio appunto la figura di Bridget Brophy, che con lui ha intrattenuto anche una polemica, perché avevano posizionamenti molto diversi, perché tendenzialmente i padri tendono a privilegiare discorsi universali, discorsi molto razionali e a ignorare totalmente le relazioni, che invece è il tema femminista. E questo come si lega alla storia, all'evoluzione della specie? Tu insomma citi anche Darwin. Eh beh, è importante perché, allora, nello specifico l'ecoveg femminismo non è particolarmente, se non in alcuni rari casi, attento alle questioni della scienza. Addirittura la matrice per alcune pensatrici è teologica. Adams, per esempio, ha una formazione teologica. Invece il cyber e tecnofemminismo, per esempio di Haraway, che incontra il postumanesimo, che incontra i nuovi materialismi femministi, è un pensiero che ha una matrice più scientifica che riflette sulla evoluzione della specie e che per esempio con Haraway recupera le nozioni come quelle di simpoiesi, no? Che vengono chiaramente dalla biologia e dalla scienza e che rileggono in questa chiave l'evoluzione, quindi non nella chiave della lotta per la vita o del gene egoista, ma nella chiave del mutualismo e della collaborazione, che è anche uno degli altri punti che consente alla riflessione antispecista di... cioè che mostra, non che consente, che mostra alcuni agganci col pensiero anarchico, per esempio Kropotkin o comunque proprio l'idea del mutualismo che viene da lì. Quindi sì, il divenire con, no? Che è anche nel titolo effettivamente, animali si diventa perché si diventa con gli animali, ma anche perché l'animalità, cioè la vita animale, è in continuo divenire e in questo continuo divenire è un continuo intreccio di relazioni tra specie diverse, di attraversamenti, specie, di corpi che sono porosi e che non possono esistere l'uno senza l'altro. Detto in questo periodo storico in cui diciamo così c'è un'accelerazione turbocapitalista proprio basata sul mangiare carne e consumare carne a dei livelli inverosimili, ci sono allevamenti intensivi sempre più pressanti. Questo, insomma, diciamo le nuove generazioni a partire da Greta Thunberg a finire alle manifestazioni, l'occupazione delle tende che ci sono state per la Palestina, quanto si intrecciano oggi questi argomenti, calcolando che ultimamente è arrivata anche una mail della direttrice della Polimeni che si lamentava che alla Sapienza erano state vandalizzate alcuni, tra cui il mammut, no? Della Sapienza con scritto animali liberi e via dicendo. Quindi Sì, quanto questo tema. ok, sai chi se ne frega della vandalizzazione di una scultura, voglio dire, quando nel frattempo noi vandalizziamo la vita, ecco, cioè mi sembra che ci siano altre priorità. Però sì, è importante notare che per esempio oggi la politica delle nuove generazioni è una politica che ha perfettamente presente questa interconnessione delle vite e questa interdipendenza dei problemi. L'approccio delle proteste studentesche alla questione palestinese, penso anche all'università dove io insegno e dove ancora l'occupazione continua, e questo è veramente molto lodevole e sicuramente anche molto serio da parte di studenti e studentesse che stanno portando avanti una riflessione che è appunto una riflessione intersezionale e che ha la sua origine anche nella attenzione per l'ecosistema, dove ovviamente la questione palestinese rientra a pieno titolo, perché quello palestinese non è solo un genocidio di esseri umani, ma è un vero e proprio ecocidio, cioè è uno sterminio totale della vita che riguarda l'acqua, che riguarda la terra, che riguarda la vita vegetale, che riguarda la vita animale e che riguarda anche la vita umana, che è chiaramente dipendente e interdipendente con tutte queste altre cose, no? Pensiamo proprio alla scarsità d'acqua, pensiamo alla distruzione dei raccolti, alla distruzione dei campi, alla distruzione degli ulivi, che sono una delle prime risorse della popolazione palestinese, ma anche al totale è del tutto, direi, inavvertito a livello mediale, no? Sterminio degli animali non umani, al massimo forse si parla di quelli degli zoo perché hanno sempre fatto più notizia, ma non si sa nulla, anche in termini di cifre, dell'uccisione degli animali non umani a Gaza, perché di fatto non è mai importato niente a nessuno. Quindi, come dice anche Harawy, sono le classiche vite che non vengono nemmeno contate nelle rilevazioni demografiche, che sarebbe necessario fare in chiave multispecie. Le nuove generazioni di questo sono perfettamente consapevoli, come sono perfettamente consapevoli, per esempio, che la Palestina è una questione che chiama in causa direttamente lo specismo, perché i palestinesi sono tra le popolazioni oggi come oggi più animalizzate a scopi chiaramente ideologici, per essere sterminate, perché vengono in questo modo rese uccidibili, no? Se tu animalizzi in maniera essenziale un corpo, secondo l'ideologia occidentale sedicente e democratica, lo puoi ammazzare. È una risorsa, oppure è semplicemente qualcosa da eliminare. No, questo è sicuramente molto interessante e tu sai se ci sono anche delle riflessioni all'interno dei palestinesi stessi su questo, delle palestinesi. Assolutamente sì, c'è una ampia letteratura che ho anche io raccolto perché quest'anno ho dedicato il mio corso all'università su colonialismo, animali e Palestina. Quindi sì, c'è una riflessione molto viva che viene anche dall'interno e esistono anche delle associazioni animaliste, in realtà quella ufficiale è una sola ed è sull'ala Animal Rescue, che pure si trova in difficoltà perché effettivamente non riesce a fare la conta dei morti animali, perché non esistono delle statistiche che siano precedenti al 7 ottobre, per esempio, no? Proprio una rilevazione di questi corpi che esistevano in quella terra. E poi ci sono delle riflessioni che vengono dal femminismo, per esempio, o delle riflessioni che addirittura vanno indietro nel tempo e raccontano come le tecnologie riproduttive israeliane, Israele è un paese che è stato sempre molto all'avanguardia per le biotecnologie, le tecnologie riproduttive hanno sempre riguardato insieme i corpi delle donne e i corpi delle animali non umane, per esempio le vacche da latte importate, perché in Palestina non esisteva questo tipo di animali, c'erano soprattutto ovini a causa del clima. E ci sono sì una serie di riflessioni molto, molto interessanti e molto attuali, anche per esempio sul vegan washing praticato da Israele o anche sul purple washing, se vogliamo restare su un livello insomma intersezionale, ma sono tutte cose estremamente connesse. Certo, no, poi sul vegan washing in particolare. Allora, il tuo libro poi ha a ogni capitolo anche cioè un librino, però così se si può dire, ma intenso, È un librino ingannevole perché è un librino per il ingannevole. formato, perché in Infatti. realtà la lunghezza del libro non è un libro corto, ma è un formato pocket, Cioè, molto fitto comodo, molto fitto, che lo rende abbastanza maneggevole e anche più comodo da leggere, Sì. probabilmente Poi sì. il carattere è anche abbastanza, per me che comincio ad avere una certa età e con la vista comincio ad avere problemi, anche abbastanza molto buono. E c'è anche una estrema, insomma, ogni capitolo c'ha la sua bibliografia, quindi che si può ovviamente consultare, che è anche la cosa che a me poi appassiona tantissimo dei libri, quello di scoprire all'interno di un libro altri libri, altre curiosità, altri filoni, perché lo studio, insomma, è bello quando è bella questa cosa di condivisione e anche di poter partire da un punto e arrivare ad un altro. Chiudo con uno dei tuoi ultimi paragrafi: uccidere è inevitabile, ti chiedi? Ecco, uccidere purtroppo è inevitabile, ma uccidere consapevolmente è assolutamente evitabile. E, questa domanda io me la pongo insieme ad Haraway, perché è lei che ha per la prima volta fatto questa riflessione, secondo me assolutamente brillante, sul fatto che nessuno è mai totalmente innocente, soprattutto oggi, no? Che viviamo in un mondo globalizzato, in un mondo in cui siamo reticolarmente connessi veramente a tante cose, non a tutto, ma sicuramente a qualcosa. Allora, quello che Haraway dice è: cominciamo a osservare questo qualcosa a cui siamo connessi e rendiamoci conto che possiamo conoscere queste relazioni e possiamo farci responsabili di queste relazioni. Quindi uccidere non è evitabile tout court, ma sicuramente è evitabile come conseguenza della nostra conoscenza. Cioè, se io so quello che so, se io ho studiato quello che ho studiato sullo sfruttamento animale, non posso, da femminista, chiaramente, restare con le mani in mano. Posso mettere in atto tutta una serie di pratiche che sono etiche e che sono politiche, che mi consentono di rispettare il più possibile l'altro da me, che tra l'altro significa anche rispettare me, perché nel momento in cui io rispetto la vita dell'altro, rispetto anche la relazione che ho con l'altro, che riconduce poi alla mia vita. Quindi assumere un posizionamento consapevole significa rendersi responsabili della vita altrui, di quella di cui ovviamente possiamo essere responsabili, perché altrimenti saremmo chiaramente dei supereroi o dei santi. È chiaro che ognuno di noi vive in un luogo, vive in una serie di relazioni più o meno circoscritte, che però ha il dovere di curare e di soprattutto conoscere e rispettare. Ringrazio Radio Onda Rossa per Radio Onda Rossa Federica Timeto, Animali si diventa, il suo ultimo lavoro, Femminismi e Liberazione Animale, edito da Tamo, editrice di Napoli, che ringrazio tantissimo. Ti ringrazio per la chiacchierata, per l'intervista, per il tema che viene affrontato secondo me sempre molto poco. Alla prossima. Ringrazio anch'io te e le persone in ascolto. Grazie.